per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Oggi è il 9 dicembre del 2020 e naturalmente domani sulla pagina della radio, sulla pagina web di Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder e su quella del sottoscritto comparirà la registrazione di questo programma. Saluto Maya in Sardegna come Nicola Locci di Stigmate. Test in Bolt Daniele Santa Giuliana, valente artista che abbiamo apprezzato recentemente qui da queste parti. Cristiano Bocci di Chemical Resistance, anche come Duo Serpe, dei quali devo menzionare una collaborazione con Progetto No Name dal nome Mr. Cartman che manderemo presto. Francesco da Bergamo, Marco qui a Roma. Un saluto a Pioggia d'Ambra, quella della Marche, altra realtà positiva dell'underground italiano. Un saluto a Andy Rivieni di Attualità Nera, Attila Folklore di Mulo Muto che manderemo più avanti, un saluto a lui dalla Svizzera. Si va ad iniziare con un artista di area, diciamo, dark ambient, space ambient qui di Roma. È al femminile, si chiama Camilla Pisani, 4 lavori al suo attivo. Ed è una delle artiste più interessanti, appunto, per quanto riguarda questo modo di approcciarsi all'elettronica. Da poco è uscito un lavoro dal nome Frozen Alchimia, ma noi invece, prima di reperire e ascoltare questo lavoro, andiamo un po' indietro nel tempo e arriviamo nel 2017, anche se questo primo lavoro dal nome Vernishot è stato stampato anche recentemente. Un album che trae spunto dal romanzo del 1865 di Giulio Verne.